Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è, come sempre, il nostro villaggio globale e questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, grandi ospiti, insomma, tutti i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666, numero che va benissimo anche per i vostri messaggi WhatsApp, 349-238-6666, il mio account di Twitter è @MartaCagnola, l'hashtag sempre per chi usa Twitter, il sabato del villaggio è sempre lungo, lunghissimo, quindi usiamo le iniziali cancelletto ISDV. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme con il nostro gastronauta. Oggi parliamo di una tendenza attualissima e di un itinerario molto dolce. Le tecnologie con Enrico Pagliarini, parliamo di audio multiroom. Cos'è? Non lo so, lo scopriremo tra poco con Enrico, ma per la prima pagina del nostro sabato, ancora una volta, che la forza sia con noi. La forza scorre nella mia famiglia. Sorella anche. E quei poteri li hai anche tu. L'avevo promesso la scorsa settimana, dopo la mole di messaggi, WhatsApp, SMS, qualsiasi cosa è arrivata, menzioni su Twitter, per parlare di Star Wars, perché sta per arrivare questo film, questa settimana finalmente arriva. La scorsa settimana abbiamo parlato di tutti i modi per prepararsi a Star Wars, guardando o non guardando i film del passato, per mettersi in pari con la saga o perlomeno per poterne parlare a cena, all'aperitivo con gli amici, perché se ne parlerà, se ne parla tantissimo. Vi avevo promesso che saremmo tornati sull'argomento perché io non me l'aspettavo, ma davvero appassiona tanto, tantissimo gli ascoltatori del Sabato del Villaggio. E questa volta andiamo a sentire non solo quello che ci aspetta al cinema, ma sappiamo che c'è ancora un gran segreto e non vogliamo svelare niente, ma tutta la galassia che costella il mondo di Star Wars. E ci colleghiamo con un esperto che ormai ci viene spesso a far visita al Sabato del Villaggio. Lo interpelliamo spesso sui videogiochi perché è un grandissimo esperto, ma non solo di quello. Buongiorno Emilio Cozzi, buongiorno Emilio. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, tu su Best Movie, che è ancora in edicola, hai fatto uno speciale enorme su Star Wars, sai tutto. Di questo film, viva Dio, si sa ancora molto poco, meno male, perché vogliamo goderci la sorpresa al cinema. Però se ne sente parlare in qualsiasi modo. Ad esempio, io so che Star Wars ormai è onnipresente nel merchandising, nelle pubblicità, quindi tutti quelli che stanno facendo regali di Natale sono lì pronti a comprare regali in tema Star Wars, è così? È assolutamente così, addirittura giusto per fare un esempio della pervasività di questo franchise, anche i motori di ricerca più importanti, Google ha aderito alla promozione di Star Wars. Voi vi citate tanto tempo fa in una galassia lontana lontana, sia in inglese che nella versione internazionale, ottenete una cosa che non vi rovino, perché dovete guardarla, ma vedete come cosa succede alla formattazione del motore di ricerca. Quelli che chiamano i cosiddetti Easter Egg, l'uovo di Pasqua. c'è una sorpresa, appare, c'è fantastico, sorpresa, allora poi provo. Ce n'è più di una, ce ne sono un sacco, perché come dicevi tu, Star Wars è ben più di un grandissimo blockbuster. Intanto si appresta a diventare, se non il film con il maggior incasso della storia, il secondo, fa male che vada, sarà il secondo. E poi è appunto, fa parte di quello che si chiama, che i fan chiamano un universo espanso, che va ben al di là di quello che viene raccontato nell'esalogia, che presto diventerà appunto una serie, una saga di 7 film. Un'esalogia che vale in 38 anni, cioè da quando nel 77 Lucas l'ha pubblicato, l'ha mandato al cinema, Nuova Speranza, da noi appunto Star Wars, Guerre Stellari, ha fatturato 27 miliardi di dollari, di cui solo 4,5 dal film. Tutto il resto arriva da gadget, merchandise, magliette, videogiochi, ci sono 330 videogiochi dedicati a Star Wars, fumetti, serie animate, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi puoi immaginare, appunto, l'universo di Guerre Stellari è davvero un universo. Tieni presente che io sinceramente non ricordo, sono credo 10 anni, 20 anni che non si parla così tanto di un film in arrivo in sala, questo da fanatico del cinema mi fa molto piacere. Mi dicevi che George Lucas è stato quasi l'inventore del merchandising, di tutti gli oggetti legati all'immaginario di un film. Assolutamente sì, quando nel 76 il giovanissimo George Lucas va a firmare il contratto, ed è curioso già che lo firmi a riprese quasi ultimate, cioè lui era già stato, aveva già fatto le riprese nel deserto, si era quasi esaurito, perché aveva finanziato i suoi addetti agli effetti speciali, che avevano fatto ben altro con i suoi soldi invece di produrgli gli effetti spettacolari che poi hanno reso celebre la trilogia. Ebbene, lui arriva a firmare con 20th Century Fox all'epoca il contratto, e a sorpresa dice a, come dire, i boss degli studios: signori miei, datemi meno soldi di quanto dovreste darmi per la regia, ma lasciatemi i diritti di tutti i sequel di questo film, e soprattutto il 60% del merchandise. Alla Fox si danno di gomito, perché il merchandise non sanno nemmeno che cosa sia, non c'è neanche un reparto fisso per il merchandise che gestisce il merchandise. In Fox non solo gli lasciano il 60% dei diritti sui sequels, ma entro 3 anni quel 60% diventa il 100%. Piccolo dettaglio, lo ribadisco: in neanche 40 anni i film fatturano 5 miliardi di dollari, il merchandise ne fattura oltre 22. Quindi, come dire, anche in quel caso George l'aveva vista abbastanza lunga, ecco, mettiamola così. E la cosa curiosa, perché George ha questa pensata? Perché, e qua il cerchio si chiude, perché tutto nasce da una produzione della Disney, nel 54, quando per la prima volta arriva alla famiglia, a casa Lucas, il primo televisore, c'è una serie intitolata David Crockett, cioè un personaggio appunto storico americano, che grazie al merchandise, solo in quell'anno, siamo nel 54, lo ribadisco, fattura 300 milioni di dollari in cappelli di pelliccia di procione, sono quelli che devi certo, certo, piccolo certo. Dettaglio, piccolo dettaglio, neanche Disney ha il merchandise, e quelli sono soldi che vanno ai venditori abusivi, a chi si improvvisa, a chi, come dire, cuce a casa propria i cappelli e li vende. Lucas si ricorda benissimo di quel precedente, e quindi appunto arriva la Fox dicendo: datemi meno soldi per dirigere il film, ma voglio i diritti sul merchandise. Appunto, l'aveva vista lunga tanto tempo fa in una galassia lontana. Esatto, ma adesso nell'anno 2015, quasi 2016, cosa ci possiamo comprare o cosa possiamo regalare di collaterale a Star Wars, visto che appunto gli appassionati sono tanti? C'è tutto quello che vuoi, dai letti a forma di Millennium Falcon, e non è una battuta, non è una battuta, a ovviamente come dire, marchi che collaborano e che hanno il marchio in licenza, storici da anni e che adesso collaborano con Disney. Penso a Lego, cioè qualsiasi astronave, qualsiasi personaggio declinato appunto nei famosissimi mattoncini danesi. Ci sono addirittura chiavette USB, le fa una ditta italiana, Mikey, a guisa, a forma di personaggi, c'è una eccezionale floccata, cioè con un rivestimento che sembra di pelo, di ciubecca, cioè una USB a forma di ciubecca pelosa eccezionale. E poi ci sono, beh, carissimi e amati videogiochi, ce ne sono due in questo momento in circolazione, uno Battlefront, prodotto da Electronic Arts, che è dal punto di vista tecnico eccezionale, una grafica forse la migliore per le console di nuova generazione, e anche su PC ovviamente spettacolare, che riproduce la parte classica della trilogia, e permette di essere anche Luke Skywalker, permette di essere Han Solo, permette permette di essere Leia, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre invece c'è anche in questo caso un esempio eccezionale di transmedialità, cioè del fatto che un brand ormai sia un franchise, sia declinato su più media diversi. Disney Infinity 3.0 Star Wars, che è appunto un videogioco prodotto Disney, che vi permette attraverso una base e attraverso i personaggi, delle miniature di plastica di personaggi più importanti, di ricrearli all'interno del videogioco, una sorta di evoluzione delle nostre, delle mie, ahimè, figurine. Cioè uno ha il personaggio vero e proprio, la miniatura la appoggia su un supporto di plastica e quel personaggio si anima all'interno del videogioco. Questo, peraltro, essendo appunto Disney, è l'unico videogioco che avrà i personaggi del Risveglio della Forza, appunto del film che esce questa settimana. Quindi invece di collezionare le figurine si comprano questi personaggini che diventano i protagonisti del videogioco? Esatto, e poi in un grandissimo, come dire, un grandissimo sincretismo disneyano, puoi affiancare Kylo Ren, il nuovo cattivo, con Topolino, Minnie e i Guardiani della Galassia, se ci tieni tanto, puoi fare tutte queste cose ed è piuttosto simpatico, sì, vedere Topolino con Darth Vader, insomma, è curiosa come questione. Secondo me vince Topolino, non ho dubbi. Vai a saperlo. Secondo me è un osso duro Topolino. Probabilissimo, assolutamente. No, questo appunto ti dice che anche in questo caso Guerre Stellari fu veramente all'avanguardia. Parlavo prima di progetti transmediali, cioè quei progetti che ormai sono tipici a Hollywood, ma arrivano proprio da lì. Cioè la possibilità di comprendere appieno un universo narrativo, non solo vedendolo al cinema, ma in realtà anche giocando al videogioco, tie-in al videogioco dedotto, leggendo i fumetti, vedendo le serie animate. C'è una serie animata, Star Wars Rebels, che è molto molto interessante, giocando appunto con i giocattoli, perché anche i giocattoli, questo fu uno scandalo qualche settimana fa, i giocattoli nuovi dell'episodio di Star Wars spoilerano il film, hanno delle battute che in qualche modo dovevano essere tenute segrete fino appunto all'uscita. Ebbene, tutte queste cose insieme permettono al fanatico, permettono al fan, all'appassionato, di comprendere davvero qualsiasi risvolto e qualsiasi, come dire, sfumatura dell'universo, perché da solo non c'è un evidentemente il film è quello trainante, ma neanche il film da solo esaurisce tutti i contenuti di un universo così complesso e così imponente anche dal punto di vista economico, abbiamo visto. Emilio, ti chiedo un'ultima cosa. La scorsa settimana lo abbiamo chiesto al nostro Enrico Pagliarini, grande fan di Star Wars, e al critico Gabriele Niola, e se li volete riascoltare c'è il podcast ovviamente sul sito radio24.it. Chiedo anche a te, Emilio, da appassionato, secondo te, per prepararsi alla visione del settimo capitolo, i primi sei vanno visti in ordine di uscita, nell'ordine cronologico della filmografia o nell'ordine degli eventi? Cioè prima i prequel e poi i primi film? Allora, c'è chi sostiene che soprattutto le nuove generazioni non abbiano nessun problema a vederseli in ordine cronologico, cioè la trilogia nuova, 1, 2, 3, i primi tre episodi, e poi quella classica, quella degli anni 70. Io invece sostengo il contrario, dico il contrario, cioè vedeteli come li ho visti io, 4, 5, 6, 1, 2, 3, perché così furono concepiti a livello drammaturgico, e così non vi perdete dei colpi di scena che poi sono in realtà importantissimi per lo sviluppo della serie. Vero è che all'occhio molto più sensibile alla meraviglia digitale, anzi molto più abituato alla meraviglia digitale di un ragazzo molto giovane, i tre episodi degli anni 70 forse sembrano un pochino datati, per quanto io credo che attingendo al mito nel senso più alto, cioè John Lucas è un grandissimo fanatico di mitografia e di Joseph Campbell per esempio, ebbene sia la storia a rendere eterna la saga di Guerre Stellari, quindi in realtà è piuttosto secondario. Io consiglio di vedere prima i classici e poi quelli nuovi, ma soprattutto consiglio di vedere due cose sfiziosissime. Una si chiama People vs. George Lucas, è un documentario in cui la gente si arrabbia con George Lucas per diversi motivi che non sto a svelare, e l'altro è un piccolo film, si chiama Fanboys, semi sconosciuto, che venne scritto da Ernie Cline, l'autore di Player One, che tra l'altro sarà il prossimo film di Spielberg, quello che uscirà fra un anno. Ebbene, è la storia di questi fan, evidentemente di Guerre Stellari, che all'epoca della minaccia fantasma, quindi 10 anni fa, decidono di fare una spedizione punitiva a casa di George Lucas e rubargli la pellicola prima che esca nel cinema. Guardatelo perché è spassosissimo. Fantastico, me li recupero anch'io allora questa settimana per prepararmi al nuovo Star Wars. Emilio, ti ritroviamo allora con questo speciale Star Wars su Best Movie, ma ti leggiamo sempre anche con passione sulla Domenica del Sole 24 ore. Siamo molto orgogliosi, grazie e buona giornata. A presto, Emilio Cozzi. A presto, grazie Marta, ciao a tutti. La paura è la via per il lato oscuro. La paura conduce all'ira, l'ira all'odio, l'odio conduce alla sofferenza. Recupera, ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport, ogni domenica alle 20.30, qui su Radio 24. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Il sabato del villaggio. E lo sapevo che sarebbero arrivati i messaggi, soprattutto WhatsApp al 349-238-6666 su Star Wars. Manca poco, c'è chi scrive che ha prenotato subito i biglietti da un mese in prima fila, anzi in ultima fila per esattezza. E poi qualcuno a cui teniamo compagnia tra Roma e Pisa, torno da un esame all'università. Com'è andato? Scrivimelo, anche che ormai sono curiosa di sapere com'è andato l'esame. Mi basterebbe che oggi si attutisse il mio mal di testa, altro che la forza, e la forza serve anche a quello probabilmente. Poi c'è qualcuno che chiede al 349-238-6666 il titolo di una canzone che è andata in onda durante la trasmissione condotta da Federico Taddia. Adesso provo a chiedere a Paolo in regia se lo ricorda. Se non se lo ricorda, io provo a mandare un messaggio a Federico. Magari Federico lo sa, ha il telefonino davanti e ci risponde. Ah, dice che ce ne sono andati 5 o 6, Paolo. Adesso allora cerchiamo di capire a quali si riferisce il nostro ascoltatore Lorenzo. Adesso però dobbiamo entrare in atmosfera un po' mangereccia e lo facciamo con questa canzone. It's a marshmallow world in the winter, when the snow comes to cover the ground. Well, it's a time for play, it's a whipping day, I wait for it to hold you round. Beh, allora così entriamo in atmosfera natalizia. Ricordiamo i 100 anni di Frank Sinatra, perché questo era Rat Pack, Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr. E poi questo era Marshmallow World, perché tra poco parleremo anche di dolci, quindi insomma, win-win-win. Tre cose che vanno bene con questa canzone. Ma per parlare dei piaceri, della tavola e delle tendenze in fatto di cibo e di alimentazione, non possiamo che collegarci con il nostro gastronauta. Ciao Davide, Davide Paolini, ciao. Ciao, buona giornata. Ma vuoi iniziare dai dolci? Possiamo anche. Ma dai, iniziamo dai dolci. Iniziamo dai dolci. Facciamo un itinerario in Brianza. A casa mia allora. Devo prendere nota? Prenderai nota, ma perché in Brianza non è che brilli, diciamo, di grandi luci sulla ristorazione, però brilla di grandissime luci dal punto di vista della pasticceria. Bene. Visto che siamo vicino a Natale, visto che il panettone o anche il pandoro imperverseranno, cominciamo magari a dare qualche indirizzo e qualche suggestione. Carta e penna pronta dimmi tutto. Sei pronta? Prontissima. Allora, cominciamo da una pasticceria che è a Erba, la pasticceria Sartori. Bene, la pasticceria Sartori è una pasticceria che ha una gamma davvero molto importante, perché parte dai classici della tradizione, dalla Sacher Torte, dalla Sant'Honoré, fino a biscotti e biscottini, ma produce per questo Natale, ovviamente, per chi lo volesse, anche un'ottima veneziana. Quindi è un indirizzo da tenere d'occhio questo. Tra l'altro è stata anche rinnovata la pasticceria, per cui vale la pena anche di fare un salto. Ma andiamo anche a Giussano, quindi andiamo a Giussano. A Giussano ha la pasticceria Cosmo, anche questo è un locale molto bello, perché quasi tutte queste pasticcerie in Brianza sono rinnovate negli ultimi anni e fanno anche dei piatti, quindi non solo si può andare mentre magari si acquistano dolci e dolcetti, si può anche mangiare un piatto oppure fare un'ottima colazione con un cappuccino e una brioche, appunto da Cosmo a Giussano, un altro posto sicuramente da segnalare, da scrivere nel taccuino, perché magari uno è più vicino ad Erba e uno più vicino a Giussano. Ma andiamo ancora, diamo ancora altre suggestioni. A Concorezzo, lì proprio vicinissimo a casa mia, quindi questo è più comodo, dimmi. E allora qui c'è la boutique del dolce, ma ti devo parlare del personaggio. Il personaggio che ha fondato questa pasticceria è uno dei nomi più importanti in Italia, perché è considerato un grande maestro della lievitazione, che si chiama Achille Zoia. Devo dire che i suoi panettoni sono veramente interessanti, appunto come ti dicevo è il mago della lievitazione, è un panettone, una delle basi principali è far lievitare bene un panettone. E Achille Zoia, quindi la boutique del dolce, fa anche un panettone molto particolare con le noci, quindi è un panettone che si chiama panettone, si chiama versione paradiso, e veramente quando lo mangi sembra di essere in paradiso, perché veramente è un dolce straordinario. Ma di Achille Zoia, oltre che il panettone, diciamo la veneziana, il panettone tradizionale, lui è bravissimo anche sul panettone gastronomico. Io sono un amante del panettone gastronomico, si trova sempre meno, e si trova sempre meno, diciamo, la grande qualità, perché nel panettone gastronomico dentro ci vogliono anche affettati di grande livello, vero, ci vuole la maionese, ci vogliono tante cose, però io lo trovo così buono, guarda, che quando comincia uno spicchio poi vai avanti, te lo vorresti mangiare. Ma per me non è Natale se non c'è il panettone gastronomico, e ti dico che penso, ecco, che molti ascoltatori alla fine si riducano a fare come me, comprarlo vuoto e farcirlo da soli, perché spesso non è all'altezza, diciamo. Beh, sai, farcirlo, uno può farcirlo con tantissime cose, ma il panettone gastronomico dentro bisogna anche saperlo fare, appunto, bisogna andare a comprare tutte le delicatezze possibili, immaginare, meglio comprarlo secondo me, magari se tu lo vuoi fare ripieno col mascarpone o con la crema o col gelato, allora sì, però il panettone gastronomico prova a andarlo ad acquistare. Io ho già segnato, certo, okay. Da vicino a casa mia vado. Poi continuiamo ancora, andiamo a Mistaglia. Io qua so già ti stavo già dicendo io il nome, perché le mie torte di compleanno fin da quando sono nata lo sapevo che avresti detto Comi, segno anche questa. Quindi sei una frequentatrice di pasticceria, insomma. Sì. E poi allora ti porto anche in un altro posto, ti porto a Cassago. A Cassago dalla pasticceria Colzani, ma qui la pasticceria Colzani è molto particolare, perché dentro non solo c'è il bar pasticceria, ma dentro c'è un personaggio che si chiama Marco Colzani, appunto, che praticamente lavora il cacao dalla materia prima, quindi se la prepara, ci prepara tutto, compra solamente le fave ovviamente di cacao, poi il resto lui diciamo fa il cioccolato con la filiera completa, la materia prima, ma non solo, anche il caffè se lo tosta, quindi diciamo che è uno dei pochi posti forse in Italia dove cacao e caffè si mangiano sapendo da dove arriva tutto il, diciamo, dalla materia prima fino proprio all'ultima goccia. E ovviamente Colzani è anche una pasticceria dove ci sono torte, ci sono paste, ci sono pasticcini e c'è anche ovviamente il panettone, quindi un altro posto da andare. Ma in Brianza poi c'è tanto altro da scoprire, io per ora oggi mi sono così riservato di darne 5 o 6, ma poi magari anche una, diciamo, nelle prossime magari potremmo anche aggiungere, perché veramente ci sono tanti posti buoni. L'hai detto tu, e non è campanilismo mio, l'hai detto tu. No, io non sono brianzolo, quindi io sono brianzolo, ti posso dire invece a Ravenna, a Lugo di Romagna c'è una pasticceria che fa un grande panettone che si chiama Tazza d'Oro, ecco. Quindi se vuoi posso dare un posso fare par condicio di provenienze regionali. Ho anche annunciato che oggi avremmo parlato di una tendenza che a me piace molto, effettivamente mi incuriosisce molto questa cosa, alla quale tu hai trovato anche una definizione finalmente, Davide. Ma guarda, io ho chiamato questa tendenza in atto un po' in tutta Italia, non è che magari è partita dalle metropoli, però si sta estendendo dietro al banco. Cosa significa questa definizione che ho dato partendo anche dalla ristorazione, ci sono molti generi alimentari, negozi dove appunto si vende formaggi, salumi, che nel tempo hanno cominciato a fare un piatto. Hanno cominciato a fare un piatto, quindi servire un piatto. Diciamo che si sono trasformati, però dalla materia prima, diciamo di grande qualità, sono passati alla cucina, ma una cucina molto semplice, perché in questi posti non si fanno mangiare molto sofisticati. Bene, a Roma diciamo che il master di questo è lo scioli. Però attenzione, che questo dietro al banco, dalla gastronomia alla cucina, è diventato un fermento in tutta Italia, nei negozi di abbigliamento, nei negozi di fiori, nelle librerie. Allora ti faccio qualche nome. Uno dei primi a Milano è un fioraio Bianchi, il quale anni fa ha cominciato a servire, oltre che a vendere fiori, ha cominciato a servire dei piatti di pasta, dei secondi, e quindi all'interno di questo negozio di fiori praticamente è nato un ristorante. Ma dietro il fioraio Bianchi, sempre a Milano, è nato un negozio che si chiama Gatto, il quale vende abbigliamento nella prima parte del negozio, poi tu entri travestiti e vedi diciamo altri pezzi di abbigliamento, poi sei tentato di proseguire e cosa entri? Entri in una sala dove si mangia con in fronte, cioè di fronte c'è proprio una cucina da cui si vede mentre si cucinano. Ecco, questi sono stati appunto abbigliamento e fiori, ma oggi il grande boom è nelle librerie. Bello, leggi e bevi il caffè e mangi. Sì, diciamo che questo all'estero era già molto sviluppato, insomma noi questo sui fiori e l'abbigliamento no, ma sulle librerie abbiamo abbastanza scopiazzato. Bene, l'esempio più eclatante è quello di Feltrinelli, che ormai con questi Red sta aprendo in tutta Italia, però questo è un fenomeno secondo me molto molto il fenomeno più interessante è nelle piccole librerie. E allora te ne cito alcune. Todo Modo a Firenze. Bene, Todo Modo, chi un po' si è occupato di letteratura o d'altro, o anche di politica e religione, sa benissimo che Todo Modo parai a buscar la virtuta divina, un po' il motto dei gesuiti, quindi di Loyola. Ma Todo Modo, in questo caso, è una libreria di Firenze, che non ha niente a che fare appunto con questo motto, però ricorda anche un libro in particolare, il romanzo di Sciascia o anche il film di Elio Petri, Il giorno della civetta. Questo è Il giorno della civetta, se non erro, dove si inizia appunto con questo incipit, e lì si mangia e si comprano libri e si può leggere. E poi ancora Tirano, libreria con vineria, addirittura con vino ad Alghero. E poi ancora Modo Info Shop a Bologna. Insomma, io potrei continuare ancora con altre due milanesi, con Open libreria. Addirittura non solo si serve cibo in questa libreria, ma ci sono anche degli spazi dove si può lavorare, addirittura affittando per giorni o settimane lo spazio di lavoro. E poi ancora Gogol, libreria sempre con cibo. Quindi diciamo che ormai è un fenomeno questo che si sta sviluppando a vista d'occhio, perché ogni negozio nuovo che viene aperto, soprattutto oggi di abbigliamento, ha il suo angolo caffè, oppure al suo angolo dove si può anche mangiare qualcosa, oppure dove si possono bere anche degli aperitivi. E questa è una tendenza secondo me in grande sviluppo, perché quando parte dalle metropoli, poi piano piano, come sono tutte le tendenze, fino a quando non diventano moda, arrivano nei paesi più piccoli. Quindi io non escludo che magari anche in paesini di 2.000-3.000 abitanti si vedrà nella libreria l'angolo dove si può prendere il caffè, si può chiacchierare, si può leggere. È un modo ovviamente per attrarre il cliente e farlo rimanere di più nel negozio, quindi è una strategia di marketing molto interessante. Su di me funziona benissimo, in effetti. Grazie, mangi, Davide. Mangi, sì, mi piace molto, non so, leggere, bere il caffè, queste cose mi piacciono tanto, mi sento molto in un film americano. Grazie Davide Paolini, bene, per essere stato con noi anche questo sabato. Al prossimo sabato, noi ci risentiamo tra poco. Il sabato del villaggio. Sono le 15:35 minuti e quindi è il momento di dare il benvenuto in studio a Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno o buon pomeriggio. Infatti sai che al sabato il villaggio c'è sempre il problema che buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonasera. Perché siamo fossimo inglesi sarebbe buonasera e va bene così. Allora questa volta oggi la è una musica bella giornata per di sole. Non c'è la nebbia quindi. Non c'è la nebbia, però noi proseguiamo la nostra, con la nostra campagna sociale per spegnere il fanalino antinebbia che serve solo in caso estremo. Sì, sì. Ormai io quando trovo qualcuno con un fendinebbia acceso in maniera inopportuna mando un messaggio a Enrico. Sì. Non ce la faccio. Ormai abbiamo questo problema. Allora io introduco sempre Enrico Pagliarini con una canzone. Questa volta però l'ha scelta lui. Se l'è scelta da solo, cosa avrà scelto Enrico Pagliarini? Addirittura. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Sì, ho pensato al titolo, non mi ricordavo tutte le parole della canzone. No, però soprattutto non era una dichiarazione per me. Non illuderti, Marta, non era una dichiarazione per te. Ho pensato al titolo della canzone. Che uomo senza cuore, Enrico Pagliarini. Perché? Ma è venuta così perché c'eri in una stanza? Perché il tema di oggi è, lo dico all'inglese, poi lo traduciamo in italiano, sistemi audio multiroom. Multistanza. Allora, meno romantico di Gino Paoli. Però si può trasmettere poi la musica in ogni stanza. Anche se la musica Gino è romantica, trasformi tutta la casa in un luogo passionale, no? Ah, straordinario, già mi piace di più, ecco, raccontami. Ecco. Allora, direi che il 2015 potrebbe passare alla storia come l'anno, tra le tante cose che sono successe, l'anno dei sistemi multiroom, perché oramai tutti i produttori, o quasi tutti, ma devo dire che siamo al 99%, tutti i produttori di sistemi audio hanno un'offerta di diffusori che si collegano in serie l'uno con l'altro, poi vediamo come si fa a collegarli, per portare audio in più stanze della casa. Lo si faceva, diciamo, i più ricchi lo facevano tanti anni fa quando uscì la filodiffusione. Ogni tanto si trova ancora nei vecchi alberghi, perlomeno la scatolina si trova ancora. Poi forse è andato un po' in disuso questa moda dei sistemi multiroom. In realtà con il wifi, e qui potremmo collegarci alla canzone che dice non ci sono più pareti, perché con i sistemi wifi si può in modo molto semplice, molto veloce, creare un sistema multistanza mettendo alcuni, bastano due, uno no perché non è multi, è una stanza sola, però già con due, tre, quattro, insomma si può riempire la casa di questi diffusori, sono delle senza casse, chiamare il muratore, esattamente, senza tirar fili. L'unica cosa che serve è l'energia elettrica, però l'energia elettrica, diciamo che in quasi tutte le stanze esiste una presa di energia elettrica, anzi esistono più punti di accesso all'energia elettrica. Ecco, in questo modo si può creare una rete, dicevo, è molto semplice perché questi sistemi fanno tutto in maniera automatica. Uno lo compra, lo accende e facciamo l'esempio più semplice: due sistemi, uno in cucina e l'altro in bagno. Questi sistemi si connettono in wifi tra di loro e in questo modo possiamo riprodurre lo stesso sorgente audio sia in un luogo sia in un altro, ma possiamo fare molte altre cose, ad esempio suonare una cosa in cucina e un'altra diffondere nel bagno. Radio 24 per tutta la casa. Ad esempio. Allora, alla base di tutto ciò ci deve essere una rete wifi. È vero che alcuni di questi sistemi si fanno la propria, però il punto di accesso dovrebbe essere il router di casa, quindi dobbiamo avere internet, dobbiamo avere una rete wifi in casa. Non è detto che la musica debba provenire però da questa rete. Questo è uno dei grandi vantaggi, cioè la possibilità di fare streaming audio, quindi di ascoltare fonti e sorgenti anche dalla rete internet in più punti della casa. Però uno potrebbe, che ne so, attaccare la propria radio classica, prendere l'uscita, metterla nel primo di questi sistemi e poi diffonderla in tutta la casa. Certo. È più facile a farsi che a dirsi, sono molto semplici. Ci sono veramente tantissimi prodotti, ne stanno adesso uscendo. Adesso sta per arrivare la mia molti. Domanda, come al solito piena di poesia. Quanto costano? Allora costano, diciamo, a partire da a spanne, perché veramente i prezzi sono molto vari, però diciamo che partiamo da un centinaio di euro per un singolo elemento, però ci sono anche dei singoli elementi che costano 300, 400, 500, perché un po' perché alcuni sono prodotti molto curati, altri sono anche qualitativamente superiori, però direi che giusto per farci capire partiamo da questi livelli. Possiamo anche partire da uno solo, che non ha molto senso perché a quel punto non è multiroom, quindi uno dice cosa te ne fai di uno, però possiamo anche partire da uno solo, dopodiché magari dopo un po' ne compriamo un altro. Sono cose modulari, quindi si possono costruire. Uno dei più grossi vincoli è che se partiamo con una marca dobbiamo proseguire con quella. Dobbiamo proseguire per quella. Quindi tanto vale magari prendere una marca nota e importante. Beh, sì, così non, quasi... poi non ci si sbaglia più. Allora, dicevo, quasi tutti i produttori di sistemi audio, quindi marchi noti, hanno una loro offerta multiroom. Forse in questo ambito il sistema più noto, anche perché è stato uno dei primi a puntare su, su questa, questa modalità di ascoltare l'audio in casa, si chiama Sonos, che è proprio specializzata in questo. Dopodiché tutti gli altri si sono aggiunti, e devo dire che oggi quasi tutti i mesi c'è qualche novità. Ti faccio un'ultima domanda prima di passare all'app della settimana. Ma poniamo che io abbia un televisore della marca A, devo comprare il della stessa... Allora no, diciamo è il sistema multiroom che deve essere della stessa marca, però le sorgenti possono essere di diverso tipo. Una cosa che non ho detto è che tutti questi sistemi possono essere pilotati laddove ci siano tasti. Molti hanno i tastini sopra proprio al diffusore, e alcuni hanno anche un telecomando. Però una cosa bella, interessante, che ci collega poi anche a quello che diremo fra poco sull'app della settimana, si possono pilotare con un'app. Ah, perfetto. E quindi io posso, quindi con lo smartphone, esattamente, con l'applicazione sul tablet o sullo smartphone, scegliere e decidere che cosa suonare, dove suonare. Quindi, che ne so, in bagno ti faccio ascoltare Radio 24, in cucina che ne so, ti faccio ascoltare la musica tal dei tali. Ecco, posso scegliere queste cose. Ti leggo una domanda che è arrivata ora via WhatsApp. Buongiorno Pagliarini, una domanda: è necessario avere connessione ADSL o comunque wifi per questo genere di diffusori? Bisogna avere una rete. Allora, no, diciamo che potrebbe anche questa rete interna non andare su internet, però se uno ha il wifi in casa cosa se ne fa, no? Certo. Sì. Bisogna avere, potrebbe allora, anche non avere, potrebbe non avere internet, alla rete. Internet e usare dei contenuti offline diciamo. Esattamente, sì, diciamo che se in quel caso io voglio ascoltare un sistema di musica in streaming non lo posso fare, perché certo, non avendo accesso a internet. Mettere un disco in vinile, sì. Ah sì, sì, sì. Metti la tua bella uscita in vinile al primo di questi diffusori, poi dopodiché puoi trasferirli in tutta la casa. Perfetto. Ci sono ormai anche gli impianti home theater che si connettono, che sono predisposti per questo tipo di connessione. Si possono fare veramente tantissime cose, ma devo dire che ci sono decine e decine di prodotti, quindi adesso noi abbiamo riassunto questo fenomeno veramente incredibile, molto interessante. Enrico, app della settimana. Allora, la categoria è le applicazioni che trasformano lo smartphone in telecomando per il televisore. Okay. Allora, io dico che in generale ormai lo smartphone è diventato il telecomando della vita, cioè si telecomanda di tutto con le app. Però molti produttori di televisori hanno la loro app con la quale si può pilotare il televisore, ma ci sono anche delle applicazioni di terze parti. Ne cito una che fa ben capire cosa, se uno la prova fa ben capire che cosa si può fare, che si chiama Peel, P-E-L, P-W-E-L, che trasforma lo smartphone in telecomando. Setup facilissimo, si dice che televisore ha, lui si prepara, fa tutto e può, da solo. Perché ad esempio io ne ho cambi una canali, qui sul mio volume, smartphone, che però è quella di, del tuo televisore. Questa è quella della Smart Cam di Premium. L'unica cosa che io piloto per ora, perché per il resto, per tutte le altre piattaforme, uso i vari telecomandi. Invece allora, Premium si usa direttamente con il telefonino. Invece questa Peel la collego al pilota il televisore. Pilota il televisore. Fa, perché uno dice, vabbè, ma perché devo mettere l'applicazione e non usare il telecomando? Allora, ad esempio, posso unire più telecomandi tutti sullo smartphone. C'è chi ha il telecomando del decoder, c'è il telecomando del Blu-ray player, c'è il telecomando del televisore, e Oppure ad esempio c'è il telecomando dell'aria condizionata o anche altri telecomandi. Ma che idea! E uno può mettere tutto sullo smartphone, poi sceglie, adesso voglio cambiare canale, voglio abbassare la temperatura, ecco, può scegliere questo. Però sullo smartphone vedo anche i programmi che in quel momento sono in TV, e quindi magari vedo la locandina di un telefilm, schiaccio, posso predisporre degli avvisi, quindi il telecomando non lo fa naturalmente questo. Beh, straordinario. Stavo pensando al mio, qui c'è un mondo, al cioè mio proprio... puff davanti al divano con una sfilata di telecomandi, e invece proverò a vedere se è compatibile col mio televisore, perché immagino che sia quella la, allora, se si parla col televisore. Certo, bisogna provare questa applicazione, ma anche alcune altre che fanno che trasformano lo smartphone in telecomando, sono compatibili con centinaia di marche e centinaia di prodotti. Però il mondo dei televisori, come il mondo dell'elettronica di consumo, è pieno veramente di tantissimi tipi di prodotto, quindi dipende, insomma, uno fa la prova. Ma è un'applicazione gratuita. A questo punto uno potrebbe domandare: ma perché è gratuita? Allora, perché sicuramente queste società raccolgono dati, e poi questi dati vengono utilizzati per capire che cosa vogliono i consumatori, perché naturalmente io poi, quando installo questa applicazione, sono disponibile a cedere dati a queste società, che naturalmente alla fine della giornata dicono: ah, oggi tot milioni di persone hanno scelto un film d'azione. Ad esempio, certo, certo. Poi quello è sempre una scelta che noi poniamo. Quello, allora, che è gratis non è mai gratis. Prima di dare la linea alla viabilità, due cose velocissime. A parte un ascoltatore, Stefano, che ci scrive via SMS: 100 euro a pezzo, conviene acquistare una radio per ogni stanza. Sì, però effettivamente lo possiamo usare per tutte le sorgenti. Però è meno audio. Flessibile, sì, certo. Poi il telefono deve avere la porta infrarossi? No, funziona in altro modo l'app. Funziona in altro modo, non c'entra niente. L'app esiste anche per Android? L'app, sì, allora, questa app esiste sia per Android che per iOS. Fantastico, sì. Enrico, allora noi ci risentiamo al prossimo Sabato il Villaggio. Grazie Enrico Pagliarini, bye per bye. Essere stato con noi. Viabilità. Ciao. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta il Sabato del Villaggio. Passa giù qua lì, su da me in ufficio immediatamente. Smetti di scherzare, ma vedi dove siamo. Dove siamo, ragazzi? Io sono a fine pena, Lavora fuori, col percorso obbligato. E con i detenuti io faccio un percorso. Ma con questa gente non ne vale la pena. Ma che è mezzanotte? È mezzanotte? È 9. Cerco io, tanto l'isola è piccina, o sei a nord o sei a sud. O di chi o di ha. Questi sono pochi secondi del professor Cenerentolo, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni. Vogliamo sapere se vale la pena andarlo a vedere? Lo chiediamo, come al solito, al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao, ciao Marta, un saluto a tutti. Beh, guarda, me la caverei così. Chi ama e ha amato il Pieraccioni, anche recente, e sottolineerei anche recente, vada assolutamente a vederlo. Chi ha amato soprattutto il Pieraccioni, e sottolineo soprattutto dei primi tempi del ciclone dei laureati, forse si troverà un po' a disagio. Ciononostante, Pieraccioni con il professor Cenerentolo cerca una via nuova, cerca di andare un po' dalle parti di una commedia un po' più salace, un po' più toscana, mi viene da dire, in un certo senso, forse perdendo però per strada un po' di come dire, di viscomica, di quella di quell'essere salace che ne ha fatto soprattutto all'inizio le fortune. Il film racconta la storia di un uomo che finisce in galera per 4 anni, però è una prigione che sta a Ventotene, quindi abbastanza invidiabile come location, e da lì, facendo finta di essere quello che non è, incontra la classica donna bellissima, perché è un ingrediente fondamentale dei film di Pieraccioni. C'è un lavoro, lo ripeto, nel tentare di trovare strade nuove da parte di Pieraccioni, che è stato abbastanza premiato dal botteghino. È uscito il 7 dicembre, lunedì, ha preso subito le feste, l'Immacolata, e sta andando piuttosto bene al botteghino, quindi potrebbe essere tranquillamente il film che troveremo in testa alla classifica degli incassi il prossimo weekend. Poi c'è un altro film che mi incuriosisce molto, Perfect Day. Che cosa ci dici, Franco? Guarda, Perfect Day è davvero, a mio modo di vedere, il film della settimana. Intanto perché mette insieme un cast straordinario, capitanato da una coppia di cinquantenni, almeno a 50-60enni come generazione, ma molto molto giovani dentro, che sono Benicio del Toro e Tim Robbins. A me ha fatto tantissimo piacere rivedere Tim Robbins al cinema. La storia è una commedia, commedia drammatica, potremmo definirla, un po' alla maniera di No Man's Land di Denis Stanovic. Forse qualcuno ricorderà quel film ambientato nei Balcani, esattamente come questo. Siamo nel 95, la guerra è appena finita, almeno ufficialmente, perché i trattati sono stati firmati, ma in realtà da quel momento di ufficialità a quando i cuori si sono riappacificati c'è sempre un bel percorso di tempo in mezzo, e in quel percorso si instaura la storia di questo clan, di questa piccola banda di operatori umanitari che hanno una missione che ovviamente è totalmente fisica ma anche metaforica, quella di tirare fuori un cadavere da un pozzo, perché sennò l'acqua sarà irrimediabilmente contaminata, ma come nella migliore tradizione balcanica manca la corda per tirarlo fuori. Allora il film è la ricerca di questa corda, che in realtà è appunto un pretesto per poi parlare d'altro, per parlare dell'uomo in confini di guerra, per parlare dell'uomo che non sa portarsi in un territorio pacificato se non attraverso altre nuove ulteriori traversie. È un film che fa molto sorridere, perché dico il tono è quello della commedia, grazie anche all'interpretazione degli attori, ma che fa anche molto molto riflettere, e ci ridà 20 anni dopo un'idea di quello che è successo in quella guerra di Bosnia, in quei Balcani, che serviva proprio storicizzare prima di poter affrontare con questo spirito. Ti chiedo due flash su quel fantastico peggior anno della mia vita e su Belle Sébastien, cosa diciamo? Ma sì, consigliamo quel fantastico peggior anno della mia vita ai ragazzi, soprattutto ai giovani, ai giovanissimi, agli adolescenti, ai ventenni che hanno amato altri film come Colpa delle Stelle, eccetera. Qui c'è molta profondità, c'è molta regia in questa storia di un'amicizia un po' forzata fra un ragazzino un po' nerd e una ragazza malata di leucemia, un po' forzata perché il ragazzino vorrebbe fare altro, ma è la madre che insiste perché passi del tempo con questa povera disgraziata, diciamo così. In realtà si rivela essere una storia fra due caratteri molto forti, che tiene in piedi il film, e vi assicuro piacerà anche a chi è più grande. Quel fantastico peggior anno della mia vita, titolo un po' non facile, diciamo, anche da ricordare. E Belle Sébastien invece è la proposta proprio della settimana per quanto riguarda la family, no? Il settore family, cioè una famiglia che va tutta insieme al cinema, perché è il secondo capitolo delle avventure cinematografiche di Belle Sébastien, e quelli della mia generazione se lo ricordano come cartone animato. La storia è sempre quella. La prima parte aveva avuto un successo clamoroso e assolutamente inaspettato in sale, e adesso arrivano le nuove emozioni, i nuovi personaggi di questa storia, lo ricordiamo, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, che è quella dell'amicizia fra questo splendido cane, intelligentissimo cane bianco, e appunto un bambino disagiato di questa zona. Film che, come dicevo, ha contenuti, quindi è un film non solo di evasione ma anche di riflessione, che però sicuramente ha la cifra per arrivare a tutta la famiglia. Franco, di consiglio in consiglio, per concludere ti chiedo cosa succederà oggi nella Rosa Purpurea, che ricordo come sempre va in onda dopo il GR delle 18. Guarda, alla Rosa Purpurea avremo chiaramente l'analisi dei film che escono in sala, l'intervista esclusiva a Fernando León de Aranoa, il regista di Perfect Day, realizzata dalla nostra Chiara Pizzimenti, e anche il collegamento con Pino Insegno, che oltre a essere un collega fra virgolette di questa radio con il suo Voice Anatomy è anche il presentatore, il volto di questo Gran Premio del Doppiaggio, Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, che si terrà il 17 dicembre prossimo a Roma e di cui Radio 24 è partner. Parleremo con Pino proprio del momento del doppiaggio italiano, è un momento di transizione, ma non vi voglio svelare molto, restate con noi, e dalle 18 in poi alla Rosa Purpurea c'è tutta questa storia, insomma, legata ai film e al doppiaggio, tutto il cinema che c'è come sempre sul nostro canale. Grazie Franco, l'appuntamento invece al sabato del villaggio con te è ovviamente per sabato prossimo. Ciao. Ciao Marta, appuntamento alla prossima settimana. Sono il re dei regali sbagliati, dei discorsi indecisi e dei piccoli salti. Sono il re dei viaggi sospesi e dei passi perduti tra i cieli e gli asfalti. Sono il re di un corteo stralunato, di episodici attori comprati a forfè. Sono il re di una donna di cuori che da tempo scordato dentro un freddo caffè. E questo è il re, davvero, Leonardo Pieraccioni, la canzone del film Il Professor Cenerentolo. Visto che la canzone era molto carina, volevo farvene sentire qualche secondo. Noi ci ritroviamo tra poco dopo il giornale radio delle 16. In questi giorni di festa, regalatevi tutta l'informazione, l'intrattenimento e la passione di Radio 24. Buon ascolto e buon Natale. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, come sempre il sabato del villaggio, la nostra guida per tutte le nuove tendenze, insomma la nostra guida per i consigli mentali del fine settimana. Poi però staremo insieme in diretta fino alle 18, la terza ora dalle 17 alle 18, l'appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? Beh, i libri del momento con i consigli di Alessandra Tedesco. Il teatro, parliamo poco di teatro e questa volta andremo a sentire tutti i consigli per le cose più belle almeno nelle grandi città italiane, almeno gli imperdibili dei capoluoghi li scopriremo insieme in questo sabato del villaggio. Poi consumi e tendenze con Maria Luisa Pezzali, fare del bene facendo i regali e i consigli anticrisi per la bolletta delle feste. Ma prima, beh, lui è il nuovo fenomeno musicale. Trionfatore, non tutti se l'aspettavano, chissà se l'aspettava lui di essere il vincitore dell'ultima edizione di X Factor, acclamato dal pubblico, dai social, amatissimo, e noi ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno Giosada. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao, allora, cari, buongiorno. Giovanni, come ti stiamo cogliendo appena arrivato, appena tornato a casa? Stai facendo... adesso, infatti sono molto contento di avere questa mezza giornata di pausa. Solo mezza giornata, insomma, perché ormai basta, da qui in poi sai che sì, la vita è cambiata. È allora ti chiedo come hai passato queste ore dal momento della... cosa è stata per te? Sorpresa, incredulità? Perché dopo tutto i favoriti eravate voi, eravate tu e gli Urban Strangers, si divideva, non si sapeva, Guarda, noi all'interno del loft veramente non sapevamo nulla di quello che stava succedendo fuori. Avevamo, insomma, il giorno della finale avevamo la percezione, non lo so, cioè più che altro eravamo contenti di essere arrivati sia io che loro, che Davide Shorty sul podio, perché insomma volevamo finire questa avventura insieme. Avevamo creato questa Bael Squad, siamo diventati molto amici, ma non solo con loro, con tutti i concorrenti. È stato veramente un anno particolare per l'unione che si è creata tra di noi, è stato molto bello. Io tifo sempre per gli over, non solo perché ho più di 25 anni, un po' di più, ma perché mi piace che al successo di un talent si arrivi non catapultati dai banchi di scuola, ma con un bel po' di esperienza. Cosa ne pensi tu? Guarda, a me ha aiutato molto, nel senso che non avrei mai fatto questa scelta, cioè di partecipare a un talent senza avere prima l'esperienza giusta per parteciparvi. Infatti, cioè, è strano l'approccio a questo tipo di mondo, cioè proviene da un mondo completamente diverso, ma sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che è stato tutto molto reale, tutto molto vero, e sono stato a contatto con un sacco di professionisti e di persone fantastiche. tutti i tecnici, tutti insomma i truccatori, i costumisti, sono tutti veramente dei grandi professionisti che mi hanno aiutato molto anche a crescere professionalmente. Abbiamo imparato a lavorare serratamente in tempi brevi per preparare un live che insomma era molto importante. Ogni volta che andavamo sul palco c'era una pressione che veramente era incredibile. Sapere che stavamo andando in diretta davanti a milioni di persone, i teleschermi, è stato tutto molto strano. Però insomma, come dicevo, ci ha aiutato a crescere molto e insomma sono pronto adesso ad affrontare questo tipo di esperienza, ecco. Il primo mattoncino è il singolo Il rimpianto di te, già scaricatissimo, sì, sulle piattaforme digitali, quindi devo dire che tutti i singoli di X Factor stanno dominando le classifiche, oltre ai brani dei giudici. Questa cosa è molto carina. Ma mi è piaciuta molto. sì, è stato tutto molto bello, questa cosa è fantastica. Sono anche contento di aver vinto, perché ha vinto Elio, ecco, ed è stato un gran ritorno anche per lui. Io sono molto contento perché sono un fan di Elio, e già aver passato questa esperienza con lui, aver avuto il piacere di lavorare con lui, è stato bellissimo, ecco. Primo mattoncino, appunto, Il rimpianto di te, adesso tocca lavorare a un album, perché per chi non lo sapesse, per i pochi che non lo sapessero, esci da X Factor con in mano per regolamento un contratto con Sony, quindi adesso il lavoro. Adesso si deve lavorare, voglio prendermi il tempo giusto per fare un album che mi rispecchi al 100%, insomma che abbia tutte le mie caratteristiche e che rispetti le mie caratteristiche, ecco, questo soprattutto, e che insomma coinvolga anche nei live la mia band, a cui io tengo tantissimo, sono le persone per le quali io sono arrivato qui. Con le quali ho condiviso tutta la mia esperienza musicale precedente a X Factor, ed è stata insomma una conquista non solo per me, anche per loro, anche per tutti gli sforzi che abbiamo fatto sempre, i sacrifici che abbiamo fatto per la musica, ecco. Lo sai che la band del frontman che partecipa a un talent è come il fidanzato di Miss Italia, è un destino che bisogna tenere caro, che bisogna tenere in considerazione sempre un ecco. Assolutamente sì, ma era, cioè, io l'ho sempre detto in tutte le interviste, che insomma loro, a parte essere degli ottimi musicisti e delle persone, degli ottimi artisti, perché stanno anche loro le loro cose, quindi io sono veramente contento di poter continuare e seguire la strada che avevamo cominciato, ecco. Tu hai parlato di tempo giusto, che è difficile poi da rispettare per il vincitore di un talent, perché le cose inevitabilmente poi devono prendere un ritmo rapidissimo. Io ovviamente né ti chiedo né voglio sapere niente di Sanremo, perché i nomi dei big saranno domani. L'anno scorso però il vincitore di X Factor venne catapultato sul palco dell'Ariston. Tu come affronteresti una cosa del genere? Sarebbe tosta, sarebbe dura, sarebbe la vita che cambia in un momento. Sì, sarebbe comunque un grande onore ricevere questo invito, e insomma se calcoliamo il fatto che io sono un cantautore, anche oltre ad essere un amante del rock, io il rock continuerò a farlo e non ci sono dubbi su questo, però essendo un cantautore anche, sul palco dell'Ariston hanno cantato i più grandi cantautori italiani della storia della musica italiana, come può essere Luigi Tenco, Lucio Dalla, insomma i più grandi, ecco, quindi per me sarebbe un onore veramente potervi partecipare. Vediamo. Vabbè, quello lo scopriremo solo domani. Ti chiedo un'ultima cosa. Esatto. Un tempo i talent erano appannaggio degli interpreti, adesso bello che ci sia un vincitore cantautore. Cambia un po' le carte in tavola. Sì, io credo di sì, credo che sia stata una mossa vincente da parte loro, perché in Italia ci sono un sacco di musicisti, c'è un sacco di gente che si sbatte tantissimo per la musica e che vuole vivere di musica, ecco, ed è bellissimo che un talent premi questa cosa qui, che premi questa attitudine, che premi l'arte che già c'è, ecco, non quella che viene costruita, quindi questa cosa è bellissima, è stata la cosa più bella di questa edizione, secondo me, ed è stato anche il motivo per il quale dentro il loft eravamo così affiatati tra di noi, ecco, c'era una condivisione condivisione di un sogno, c'era la condivisione di proprio di un'esperienza, ecco, questa è stata la cosa bellissima tra me, i Music, gli Urban Strangers, i Landlord, tra tutti veramente, a Shorty soprattutto, che insomma si è vista in lui l'esperienza, cosa fa, è stato bravissimo, cioè io sono contentissimo di arrivare con lui che era nella mia squadra, è stato bellissimo, sono ancora senza parole. Lo sentiamo, ti lasciamo godere questa mezza giornata di vacanza in famiglia a Bari e poi, poi quello che succede, noi facciamo sempre il tifo per te, grazie a Giosada. Ti ringrazio di cuore, ti ringrazio e saluto tutti, un abbraccio. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Regione Campania informa. La Regione Campania ha posto al centro della sua azione il potenziamento delle strutture e la condivisione delle pratiche di ricerca scientifica, al fine di rafforzare il sistema della ricerca, facilitare il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici e favorire una più diffusa cultura dell'innovazione nel tessuto imprenditoriale. I distretti ad alta tecnologia promossi dalla Regione attraverso il POR Campania FESR sono DAC, Distretto Aerospaziale, Stress, Edilizia Ecosostenibile, Data Bank, Beni Culturali, Campania Bioscienze, Biotecnologie, Smart Power System, Energia, Dattilo, Trasporti e Logistica. Il sabato del villaggio. E al sabato del villaggio è il momento di parlare di libri. Riporta subito a me, cinefila, riporta subito a Suburra, che è uscito qualche mese fa, un paio di mesi fa, il film diretto da Stefano Solli, ma che era tratto da un'opera letteraria molto importante. E sarà mica che siamo in quell'atmosfera lì con Alessandra Tedesco? Glielo chiediamo subito, ci colleghiamo con Alessandra, che questa volta è al telefono. Buongiorno Alessandra. Ciao Marta, ciao a tutti. Dove sei finita? Perché sei al telefono? Non sei in studio con me? Non sono dove in studio, sono finita? Al telefono perché sono al Courmayeur Noir in Festival. Ormai sono 25 anni che c'è questa manifestazione ed è un festival dedicato sia al cinema che ai libri, anche alle serie TV noir. Quindi un po' di noir parliamo anche noi, dai. Sì, parliamo anche perché il noir e i gialli sono praticamente il genere più amato dagli italiani. Siamo vicino a Natale, bisogna fare i regali, bisogna decidere cosa scegliere, insomma cosa prendere, cosa comprare, cosa regalare. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è uno dei libri di cui si sta parlando in questo periodo, è appunto il cosiddetto sequel di Suburra, si intitola La notte di Roma, pubblicato da Einaudi ed è stato scritto anche in questo caso da, come dire, ormai una coppia di fatto della narrativa italiana, ossia Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. Dicevamo che è un po' un sequel di Suburra perché si ritrovano un po' gli stessi personaggi, cioè per esempio Samurai, che però questa volta è finito in carcere, e però qualcuno deve prendere il suo posto, diciamo, nel meccanismo criminale romano. Mentre Suburra aveva in qualche modo anticipato le indagini di Roma Capitale, tutto lo scandalo, eccetera, non si sa se questa La notte di Roma anticiperà altri tipi di indagini, tant'è vero che ormai la coppia De Cataldo Bonini viene chiamata la coppia, diciamo, che ha inventato il romanzo profetico, i romanzi che anticipano la realtà. E dicevamo, in questo caso però hanno preso spunto da un altro fatto vero, cioè dal fatto che il Papa ha proclamato il giubileo straordinario per il 2016, però loro lo vedono dal punto di vista della criminalità, ma soprattutto degli intrighi politici, cioè come occasione di corruzione, e da qui insomma ne nascono tutte le vicende di La notte di Roma. E chissà se anche questo diventerà un film e poi una serie come Suburra. Lo sai che l'ho chiesto a De Cataldo e Bonini, mi hanno detto ancora non sappiamo. sappiamo, si sono trincerati dietro un no comment, ma io ci sono pronta a scommettere. Ci scommettiamo un caffè, Marta? Ah sì, no, guarda, sono abbastanza convinta anch'io. Adesso ma vediamo sì. come andrà avanti. Ancora consigli, Alessandra? Rimaniamo sempre sul genere? Beh, rimaniamo sempre sul noir, sul crime, anche, anzi, su qualcosa di più tanto. No, ma anche perché a Natale siamo tutti più buoni, però a tutti piace ricevere in regalo un libro un po' pulp, quindi va bene. Ma sai che ci sono anche le raccolte, i gialli di Natale, spesso li fa Sellerio, insomma, tutti i giallisti si scatenano in questo periodo, perché ci piace leggere qualcosa un po' forte, e devo dire che questo è veramente forte, perché stiamo parlando niente poco di meno che del maestro del crime americano Joe Lansdale. Lui è uno scrittore, Marta, che praticamente ha fatto di tutto: racconti, romanzi, fumetti, ha scritto di fantascienza, horror, crime, addirittura western. Veramente ha una mente poliedrica. E stavolta il libro che vi segnalo è Honky Tonk Samurai, che non c'entra niente con Samurai, protagonista della notte di Roma di De Cataldo, è assolutamente un caso. La copertina, tra l'altro, è quella della versione italiana, è stata disegnata da Zero Calcare, ed è bello interessante sottolineare che questo romanzo è stato pubblicato prima in Italia, prima da noi, e fra un po' verrà pubblicato anche negli Stati Uniti. È un romanzo che fa parte della serie di Hap e Leonard, che è una coppia di investigatori privati veramente molto cara a Lansdale, tant'è vero che lui dice sempre che si identifica moltissimo nel personaggio di Up. Stavolta vengono ingaggiati da un'anziana signora che in realtà li ricatta perché ha un video, eccetera, ma non vi posso spiegare nei dettagli. Li ingaggia per risolvere un cold case, un caso freddo, ossia la scomparsa di sua nipote avvenuta 5 anni prima. E indagando in questo caso si troveranno a che fare con una banda di motociclisti drogati, con uno che viene chiamato il distruttore, che ha un modus operandi di uccidere veramente particolare, cioè ha l'abitudine di evirare le sue vittime. Accidenti. Quindi lo diciamo che John Lansdale è per, come dire, è per animi e fegati forti, veramente, perché i suoi romanzi sono veramente pulp. Anche qui però si parla di una serie TV in lavorazione, mi dicevi? Sì, una serie TV in lavorazione che appunto uscirà negli Stati Uniti, perché questa coppia, Leonard, è veramente molto molto famosa. Questo è l'ottavo romanzo, sta scrivendo il nono Lansdale con questa coppia di investigatori privati, quindi come nella notte di Roma, Suburra diventerà per esempio una serie TV di Netflix, in questo caso anche altre serie TV, ormai non si fa solo il film, ma tu lo sai meglio di me, si va subito direttamente alle serie televisive. Andiamo ancora ai consigli, Alessandra. Allora, a questo punto facciamoci dare dei consigli di gialli e noir da un noirista, ossia Maurizio De Giovanni, che insomma è un noirista molto amato in Italia. Lui è autore di due saghe in particolare, quella del commissario Ricciardi, che è ambientata durante il fascismo, sono tutti casi ambientati nel ventennio fascista, e poi c'è tutta la saga dei bastardi di Pizzo Falcone, ossia un gruppo di poliziotti del commissariato appunto di Pizzo Falcone a Napoli, in questo caso sono romanzi ambientati ai giorni nostri. L'ultimo romanzo in questo senso è Cuccioli. Però insomma Maurizio Di Giovanni, da noirista, ci dà dei consigli su quali sono i tre gialli veramente imperdibili. Trilogia della città di Cappa di Agota Christoph, un libro terribile, drammatico in ogni sua parte, straordinario, in prima persona plurale. Tra i grandi classici, L'amore ai tempi del colera di García Márquez, perché fa vedere come un'ossessione possa essere bellissima, come un amore possa diventare un'ossessione, ma come questa ossessione possa essere bellissima. E tra i contemporanei io proporrei La ragazza delle nebbie del mio amico Donato Carrisi. Donato è uno scrittore raffinatissimo, profondo e sensibilissimo, quindi mi piacerebbe che si avvicinasse anche a questi grandi classici, a questi straordinari autori, anche un bravissimo autore italiano contemporaneo. E questi erano i consigli di Maurizio De Giovanni. Alessandra, però adesso te lo dico io che Maurizio De Giovanni arriverà presto in TV con una serie italiana. A questo punto ti svelo io che la sua saga dei Bastardi di Pizzo Falcone diventa una serie TV con Carolina Crescentini, con Alessandro Gassman, con Gianfelice Imparato, che andrà in onda in autunno. Così ho fatto un po' di sfogo di conoscenza di Maurizio De Giovanni. Belli i suoi consigli, Alessandra. Sì, tra l'altro, guarda, l'ultimo che ha dato, sia La ragazza nella nebbia, scritto da Donato Carrisi, è il protagonista della puntata del Cacciatore di Libri di questa sera, in onda alle 22. Avremo appunto ospite Donato Carrisi, che ci racconterà di questo suo nuovo thriller. Tra l'altro, Donato Carrisi è uno dei thrilleristi, io lo definisco così, italiani più famosi al mondo. Non so, lo hanno anche Ken Follett, per dire, giusto così, per fare un esempio. E quindi, se volete più particolari su questo libro, La ragazza nella nebbia, dovete ascoltare naturalmente Il Cacciatore di Libri stasera alle 22. Perfetto. Alessandra, abbiamo ancora qualche minuto per un ultimo consiglio. Di cosa ci vuoi raccontare? Beh, io direi che non possiamo non parlare del libro del momento, del libro di cui tutti parlano, che molti avranno letto perché in tanti l'hanno comprato. Sto parlando di Fabio Volo. È tutta vita il titolo di questo romanzo pubblicato come sempre da Mondadori. Cosa io non l'ho Fabio ancora letto, e però avevo già fatto coming out in passato e avevo confessato che io i libri di Fabio Volo li ho letti tutti, quindi non l'ho ancora letto ma lo leggerò. No, io non li ho letti tutti, ne ho letti alcuni insomma sono risultati piacevoli, altri meno. Diciamo che in questo caso c'è un Fabio Volo più maturo, nel senso che racconta una storia come se fosse un sequel di tutti i suoi romanzi precedenti. Cioè, mentre nei romanzi precedenti c'erano storie, innamoramenti, tradimenti, io ti lascio, tu ritorni, eccetera eccetera, in questo caso si analizza la vita di una coppia dopo la fase dell'innamoramento, quando hanno un figlio eccetera, e improvvisamente si trovano a che fare con la vita quotidiana. Lui dice a un certo punto: mi sembra di avere accanto un'estranea. Quindi insomma è tutta la fase che viene dopo l'innamoramento. Il romanzo è uscito circa 3 settimane fa. Sai quanto ha venduto, Marta? Non ho idea. Dimmi una cifra. Ma sai che non ho proprio idea, perché mi devi dire, ecco, quanto ha venduto e anche farmi un paragone, cioè per farmi capire la quantità. La quantità. Allora ti dico che la casa editrice dichiara 400.000 copie vendute. Io ho proprio riscritto una mail, dico: ma siete sicuri 400.000? Non sono un po' troppo in 3 settimane? Ora, che siano 400.000 o che siano 300.000, fatto sta che veramente è un numero straordinario, perché ormai in genere i primi in classifica ogni settimana riescono a vendere 20.000, 25.000 copie, vogliamo esagerare? Ecco, venderne in 3 settimane 400.000 mi sembra un risultato veramente straordinario. Però ti voglio aggiungere un piccolo particolare. Sì. Se vi piace l'idea del vedere cosa accade ad una coppia, il sentirsi estraneo all'interno di una coppia, eccetera eccetera, e avete già letto Fabio Volo e volete anche un altro consiglio mio personale, io vi consiglio La storia di un matrimonio di Andrew Sean Greer, pubblicato da Adelphi nel 2008, quindi è un libro che si trova anche in edizione economica ed è un libro meraviglioso in cui veramente un uomo e una donna sposati da tanti anni all'improvviso si domandano: ma chi è la persona che mi sta accanto? Ah, beh, secondo me in molti hanno annuito mentre dicevi questa cosa. Alessandra, abbiamo già svelato quindi il contenuto del Cacciatore di Libri, che andrà in onda quando? Stasera alle 22, Marta. Invece noi insieme ancora il prossimo Sabato del Villaggio. Ciao Alessandra. Baci a tutti e buona lettura. Il Sabato del Villaggio. Abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di libri, adesso al Sabato del Villaggio, il sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, è il momento di aprire la pagina dei consumi. It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. riascolterei tutta, era bellissima questa Do They Know It's Christmas. Eravamo piccine noi, è una io canzone... posso cantarla tutta. Anch'io parola so per parola, tutta a memoria. Come We Are The World uguale. Non ti ho ancora salutato, buongiorno Maria Luisa. Ciao, eravamo Marta. Qui a cantare, esatto. Do They Know It's Christmas. Un saluto a tutti. Allora, perché questa Do They Know It's Christmas? Perché è quasi Natale, perché fa subito aria di Natale e perché è stata un po' la prima canzone che ha rappresentato una grande operazione di beneficenza. Era Band Aid, si erano messi insieme tutti gli artisti inglesi raccolti dal grandissimo Bob Geldof, che aveva deciso: facciamo questo grande messaggio per Natale, ma anche questa grande raccolta fondi, perché a Natale siamo tutti più buoni e possiamo anche fare del bene in maniera lieve e divertente. Assolutamente sì, possiamo fare dei regali facendo del bene. Oggi, Marta, ho deciso di parlare di charity shop e regali solidali. Insomma, il periodo è assolutamente questo, quindi parliamone, elenchiamoli, rafforziamo insomma anche questa idea di comprare degli oggetti che nello stesso tempo insomma riescono a fare del bene. La capitale dei charity shops, lo ricordiamo, negozi il cui ricavato viene devoluto ad associazioni caritatevoli e umanitarie, è Londra. Qui infatti è nato, eravamo già in Inghilterra, esatto. Quindi ci siamo. È nato il primo charity shop della Croce Rossa nel 1941. Qui ci sono ad esempio quelli famosi di Oxfam, si trovano soprattutto libri e abiti vintage. Molti di questi abiti, pensa Marta, vengono donati dalle celebrities, quindi insomma sono luoghi in cui è possibile trovare oggetti veramente unici. È una formula però che si sta finalmente diffondendo anche in Italia, e allora iniziamo ad elencare. A Milano, ad esempio, in via Padova 36 c'è il primo negozio dell'usato per il sociale, si chiama Share, si definisce un luogo per gli amanti dello shopping con il gusto della solidarietà. Capi unici per tutte le tasche, super consigliato, Marta. Ah, fantastico. E poi in piazza Gaiolenti, sempre a Milano, per tutto il mese di dicembre c'è il Christmas Shop di Dynamo Camp, la fondazione che offre camp di terapia ricreativa a bambini affetti da patologie gravi e croniche. So che è una realtà che conosci bene anche tu, Marta. Ebbene sì, ebbene sì. Nel negozio si possono trovare articoli di abbigliamento, accessori, articoli regalo e cesti natalizi. Insomma, basta andarci e sicuramente qualcosa da regalare si trova. In piazza San Fedele, sempre a Milano, il Temporary di Aibi, amici dei bambini, con tanti prodotti donati da grandi brand. Quindi in questo caso si trovano prodotti griffati. Per chi non abita o non passa da Milano, c'è anche lo store online aibishop.it. E poi anche CISV ha la sua vetrina virtuale all'indirizzo regalisolidali.cisvto.org, prodotti di artigianato provenienti dall'Africa e dall'America Latina. Gioielli, tessuti, sono andata a vedere, Marta, in questa vetrina virtuale, gechi in ferro battuto, ad esempio, che arrivano da Haiti, poi gli orecchini in paglia della Colombia e questa te la voglio regalare, Le bamboline scaccia pensieri del Guatemala. E ce n'è di pensieri da scacciare. mi sembra un'ottima idea, regalo e autoregalo anche. Molto bella, pensa, sono bamboline minuscole custodite in queste scatoline, vengono, per la tradizione, vengono messe sotto il cuscino e durante la notte si portano via preoccupazione e cattivi pensieri. E ottima, voilà, idea, ci vuole, serve Maria Luisa. E poi Fondazione Rava, Teleton, Save the Children, Medici Senza Frontiere, UNICEF, insomma il consiglio è quello di cercare l'associazione più vicina per qualche motivo alle proprie sensibilità, affidarsi all'offerta dei regali solidali. Anzi, se qualche ascoltatore è a conoscenza di qualche iniziativa del genere e la twitta, @MartaCagnola il mio indirizzo Twitter, io la ritwitto subito, così se ci fate sapere se c'è qualcosa di vicino a casa vostra, io lo rilancio subito via Twitter. Facciamo fare un bel così. Buzz solidale. Fantastico, mi sembra un'ottima idea. E ricordiamo anche, ecco Marta, che su eBay c'è una sezione di aste di beneficenza con tante esperienze anche uniche e interessanti, oggetti donati, autografati, in questo caso da cantanti, calciatori, personaggi famosi in genere, se non anche addirittura la possibilità di incontrarli nel backstage, insomma un regalo esperienziale abbastanza unico. Mi piace molto. Possiamo passare ai nostri consigli anticrisi? Assolutamente al momento? Sì, dovremmo avere in collegamento la nostra Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, ciao Marta. Ciao, ciao Cristina, allora oggi cosa ci regali come consiglio anticrisi? Eh beh, certo, bisogna parlare di regali perché si avvicina il Natale, però oltre ai regali a Natale bisogna anche pensare a risparmiare. E anche quindi, per permetterci regali, ovviamente. Ottima strategia. Allora, la strategia in questo caso guarda ai consumi di elettricità e di energia. Quindi in particolare cominciamo a pensare all'albero, al presepe. Che si faccia l'uno, che si faccia l'altro, sicuramente non ci faremo mancare le classiche lucine. Poi ormai stiamo diventando sempre più americani, per cui queste lucine si addobbano balconi, addobbano siepi, eccetera, eccetera, con un consumo di energia pazzesco. Allora, si risparmia oltre il 20% dei costi della bolletta se invece di mettere le luci fisse si mettono quelle alternate. Sembra una stupidaggine, però anzi, se si spengono anche di notte si arriva a risparmiare il 40% di elettricità. In fondo, se giusto, stiamo dormendo, anche se non c'è l'albero che, come dire, apri gli occhi, e va bene che si trova più facilmente il bagno, però in linea di massima non abbiamo bisogno dell'albero di Natale illuminato anche di notte. Quindi magari questo... Cristina, lo lasciamo solo la vigilia perché così Babbo Natale ci trova, sì, solo per quello, magari la notte della vigilia lo lasciamo acceso. È sempre sì, la preoccupazione di mia figlia quella. Anche perché poi la notte di Natale molti la festeggiano insieme agli amici. Qui passiamo al secondo consiglio: grandi riunioni familiari, in più qualche bicchierino, che mi raccomando poi non si sale in macchina ma si va a casa a piedi, così si smaltisce un po' e la sbornia e il cibo. Però detto questo si crea calore, quindi perché non ricordarsi di abbassare di almeno 3 gradi il termostato, perché tanto faranno moltissimo i fornelli utilizzati prima e sicuramente la famiglia, il calore familiare, possiamo dirlo a voce forte, che porteranno i gradi della nostra casa in maniera più naturale ad essere quei 25, anche se li impostiamo sui 18. E qui abbiamo un bel 10%. Se poi abbiamo a pranzo cena per tutte le varie feste, per cui sera di Natale, giorno di Natale, spesso si festeggia Santo Stefano, per non parlare della notte di Capodanno e magari pure la Befana, beh, allora lì sicuramente sono soldini che ci mettiamo in tasca. Poi si passa al cibo. Cuciniamo? Sì, allora, tanto per cominciare, tanto il menù di Natale più o meno tutti ce l'abbiamo in mente, o perché si fa sempre la stessa cosa, che è quella che abbiamo scoperto accontenta tutti, o perché pur creando ogni anno, appunto perché è una creazione, si ha bene in mente che cosa si vuole preparare. Allora, se dobbiamo scongelare, perché ci siamo portati avanti, beh, invece di usare il microonde, tanto vale mettere fuori il pezzo di carne, il filetto comprato chissà dove, lo mettiamo a scongelare all'aria invece che usare il microonde, qui si risparmia. Mentre invece il microonde, molto meglio se lo usiamo, se dobbiamo invece riscaldare, se facciamo i furbetti e andiamo in gastronomia a prendere quel preparato, l'anatra all'arancia, eccetera, che spacceremo per nostro, scaldato nel microonde, non a pentola, anche come si consuma di più. E qui siamo a un bel 13%. Tra l'altro, ricordiamoci che tutte quelle piccole cose che ci hanno regalato negli anni passati, tipo la suocera che vi ha regalato la pentola a pressione che non volete usare, piuttosto che la vaporiera regalata dalla cugina salutista, beh, quelli tirateli fuori perché vi fanno risparmiare un sacco di energia invece dei fornelli. Quindi pentola a pressione e vaporiera a go-go, 66% di energia risparmiata in termini di gas, se a questi si preferisce, perché ovviamente con la pentola a pressione, lo sappiamo, si cucina in minor tempo, e anche la vaporiera utilizza molto meno gas di quello che utilizza un fornello normale. Vero. Ultimo consiglio, il forno. Il forno potete cucinarci, se avete uno di quei bei forni grandi, il mio non è così grande, ma se avete quei bei forni grandi o ci infilate un tacchino enorme, altrimenti riuscite a cucinare più cose a livelli diversi, come fanno d'altronde gli chef, perché ci sono preparati che hanno bisogno di un fuoco forte, ma ci sono altri invece che devono stare più leggeri. Invece di fare due torni, uno a 250 gradi e un altro a 160, tanto vale metterli a due livelli, che così quello sopra sarà a 160 e quello sotto a 250, risparmiando tempo e anche per l'appunto energia. Beh, ma qui siamo a livelli altissimi. Beh, io ho preso un po' nota e devo dire che accidenti, sì, stando attenti, effettivamente un bel po' di risparmio sia in termini di soldini sia in termini di risparmio energetico, e qualcosa fa bene all'ambiente, insomma si può fare molto. Che bei consigli, grazie Cristina. Grazie a voi. Un'ultima cosa, perché ovviamente tutte queste cose non le so da sole, bisogna ringraziare facile.it che mi ha aiutato a cercare tutte queste, soprattutto le percentuali, perché di quelli non avrei avuto idea. Comunque facile.it dice 65 euro risparmiato se seguite tutte queste cose, quindi non verrà un gran regalone, però almeno una pizza per due ci sta. Perfetto, perfetto. Grazie Cristina, al prossimo sabato. Grazie Maria Luisa, l'appuntamento invece con te, con Essere Avere domani. Domani alle 22 come sempre. Un saluto a tutti, a presto. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Il sabato del villaggio. Ed eccoci con l'ultimo spicchio di questo sabato del villaggio, ma tra poco ci cambieremo d'abito e sarà il momento di RadioTube. Ve l'ho detto, finalmente, dopo tanto tempo che non lo facciamo, torniamo a parlare di teatro e io inizierei entrando in atmosfera con una canzone. E 5, 6, 7, 8! Quando tu mi hai chiamata, non ti ho detto di no. La mia vita è cambiata, ti ho dato tutto quello che ho. Io questo lo riconosco, è Sister Act, l'ho già sentito. Sono contenta di poter parlare di teatro con la nostra super appassionata di teatro a Radio 24, che voi sentite spesso anche parlare di politica. Infatti ve lo confesso, ve lo dico, cari ascoltatori, è alla Leopolda di Firenze, ma io l'ho rapita per 10 minuti. Chissà, si arrabbieranno con me, non lo so, non importa. Buonasera Elisabetta Fiorito, ciao Betta. Ciao, buonasera, buonasera radioascoltatori. Si parla di teatro e certe volte poi si parla di teatrino, se vogliamo. Ecco, dire. Ecco, diciamo che tu soutiens, c'è un'analogia, però dai, parliamo della tua grande passione. Elisabetta, al di là della politica, però appunto, ecco. Il teatro. Allora, abbiamo sentito questo brano di Sister Act che sarà al Teatro Brancaccio fino al 24 gennaio, ma si prolungherà se ci sarà pubblico. Il musical è stato completamente tradotto da Franco Travaglio e abbiamo addirittura una special guest star, perché Suor Maria Cristina sarà nel ruolo di Suor Maria Roberta. Ah, Suor Cristina, quella di The Voice, sì, ecco, sì, che sì, fine ha fatto, che era un po' che non la sentivamo. Bello, sono contenta, molto simpatica. E invece Suor Maria Claretta sarà Belia Martin, già paratitissima nell'edizione spagnola del musical. Quindi questa cosa, diciamo così, è anche in vista del giubileo. Roma, ci saranno moltissimi spettacoli durante le feste di Natale, perché di questo che stiamo parlando oggi, no? Ci vogliamo fare un piccolo siparietto. E poi, sempre riguardo al giubileo, dobbiamo segnalare giovedì 17 dicembre, al Teatro Olimpico, in prima italiana, il Credo dell'Orchestra di Piazza Vittorio. E ne abbiamo un piccolo estratto, eccolo qua. C'è Elisabetta, il Credo dell'Orchestra di Piazza Vittorio, 17 dicembre dicevi, sempre a Roma. 17 dicembre a Roma, in una serata unica al Teatro Olimpico, che però poi andrà in giro per tutta Italia. Sappiamo che l'Orchestra di Piazza Vittorio cerca sempre di coniugare varie tradizioni. Poi abbiamo all'Eliseo invece uno spettacolo, un one man show di Luca Barbareschi, in Cercando segnali d'amore nell'universo, sempre durante le feste natalizie. E anche qui abbiamo un piccolo estratto, mi sembra. Ce l'abbiamo. Guardo Paolo, ce l'abbiamo. Quando sono venuto fuori mi hanno dato il classico schiaffone per farmi piangere e farmi respirare. Io però non ho pianto, mi ero offeso subito, così. Non è facile avere un padre così. Oltretutto era, diciamo, un ottimizzatore che non buttava mai via il tempo. Non l'ho mai visto camminare come uno fa il giro col bambino. Lui camminava sempre facendo un saltino. Luca così. Barbareschi non è un caso che sia all'Eliseo, perché so che insomma si è impegnato molto attivamente in questo teatro. Sempre a Roma, certo. Siamo. Sì, sempre a Roma siamo, fra poco finiamo con la capitale. Dobbiamo ricordare che al Teatro dell'Opera per tutte le feste natalizie ci sarà lo Schiaccianoci, ma ci sarà anche un concerto per il Giubileo della Misericordia mercoledì 30 dicembre alla parrocchia di Sant'Anna. Poi dove debutterai il 12 dicembre in prima nazionale Storia di Claudia, anche qui un one woman show con Claudia Gerini, che però sarà poi dal 26 dicembre al 17 gennaio al Quirino di Roma, quindi debutta nelle Marche, arriva a Roma, ritratto di una capitale, sei scene di una giornata politica, di una giornata a Roma invece al Teatro Argentina dal 22 dicembre al 3 gennaio. E adesso cambiamo città, andiamo al sud, perché in tipica atmosfera natalizia ci sarà Filumena Marturano dal 25 dicembre al 6 gennaio al Teatro San Ferdinando, e la protagonista sarà Gloriana, e anche qui mi sembra che dovremmo avere un pezzettino. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Voi procedete. Se mi date mandato. Finalmente. Ma vuoi fornì? Statta zitta, ma sei da figlia. Filumena. E chi sei tu che mi vuoi chiarire vicino ai figli miei che mi sono figlia? Avvocato, questa legge romana mi permette, no? Ma siete figlia e io sono Filomena Marturano e non ho bisogno di parlare. Voi siete giovinotte e avete inteso parlare di me, e me non ha già riuscito niente. E fino a quando teneva 17 anni. Sì. Avvocato, e sapete chi li fascia? I bassi. A dove non c'è sta luce manca a mie ziorni. Nera, affumacata. Io parlo napoletano, scusate, dove non c'è luce nemmeno a mezzogiorno. Rindano fascia di chilo, mica saliboria. C'è stai via qua, famiglia mia. Beh, puro distillato di Napoli, Betta. Filumena Marturano a Napoli, quindi. Napoli, quindi, ovviamente, e abbiamo sentito quando lei dice, no, io vengo dal luogo dove non c'è luce, no, nel basso napoletano, ovviamente non c'è luce, è una casa scura, buia, e ricordiamolo, quindi, Gloriana, molto brava, tra le altre cose, al Teatro San Ferdinando dal 25 dicembre al 6 gennaio. Poi, ovviamente, non poteva mancare la tua Milano, Marta, dai, qualcosa anche per noi che rimarremo ancora per un po' a Milano. Cosa andiamo a vedere a Milano? Allora, intanto io amo sempre il Teatro Franco Parenti, perché fa sempre queste cose molto frizzanti, e fanno una commedia molto carina che si chiama Ieri è un altro giorno, andrà in scena da sabato 26 dicembre a mercoledì 6 gennaio, e abbiamo in scena Gianluca Ramazzotti e Antonio Cormacchione, e anche Michela Miconi, insomma Milena Miconi. C'è un cast molto divertente e molto frizzante. Sentiamone un pezzettino. Prima, seconda, terza, così si fa. Domani è un altro giorno. No, ieri è un altro giorno. Sì. A me i giorni di Natale fanno sempre venire grande voglia di teatro, quindi questo me lo segno, al Teatro Franco Parenti a Milano. E c'è uno speciale 31 dicembre sempre al Teatro Franco Parenti con Mi voleva Streller con Maurizio Micheli, e poi ieri è un altro giorno appunto con Gianluca Ramazzotti e Antonio Cornacchione, che abbiamo sentito molto carino. Poi abbiamo tutta una programmazione del piccolo, perché c'è una programmazione molto carina che parte da un teatro di marionette con il gatto con gli stivali dal 27 dicembre al 6 gennaio, e dal 28 dicembre al 10 gennaio c'è lo Slava No Show, che sono una sorta di clown però molto molto particolari, con grandi coreografie e con praticamente la neve che cade, insomma è molto molto divertente, con delle musiche anche molto molto suggestive. Betta, abbiamo ancora un minuto, dacci altri consigli. E ci poi, siamo e poi Cinderella al Teatro alla Scala, Sergei Prokofiev e quindi chiaramente questo lo segnaliamo per le feste natalizie dal 19 dicembre al 15 gennaio. E poi al Teatro Carcano c'è la Befana, insomma, e c'è un grande classico del balletto che è il balletto di Mosca, la Classica. Quindi insomma moltissimi spettacoli, ora questi sono solo una piccolissima selezione, moltissimi spettacoli da andare a vedere anche in Veneto, insomma c'è solo da divertirsi e da godersi queste feste natalizie, Marta. E magari regalarli anche dei biglietti del teatro, mi piace molto come idea. Grazie Elisabetta Fiorito per essere stata con noi, per aver rubato qualche minuto alla politica. Ti lasciamo, grazie a voi. Ti lasciamo ai tuoi impegni professionali consueti. Grazie Elisabetta per essere stata con noi, ciao. Ciao. Noi ci ritroviamo tra poco, perché adesso è il momento di dare la linea al GR, al giornale radio delle 17, ma poi saremo insieme per un'altra ora in diretta del sabato pomeriggio, in diretta con Radio 24. Ovviamente adesso andiamo a cambiarci d'abito, cambiamo le sigle, cambiamo tutto, perché sarà il momento di RadioTube, non subito appunto, ma dopo il giornale radio delle 17. Noi ci risentiamo più tardi.